In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. Faccio quasi fatica a entrare perché devo interrompere la sigla fantastica del grande Luigi Speciale. Bella, bella, bella. Bene. Lei lo sa che Freud morì a 83 anni facendosi una sola domanda? Che cosa vogliono le donne? Non sarebbe una cosa meravigliosa se lei fosse l'unico uomo sulla Terra a potergli finalmente rispondere? Ecco, non ce n'è una tra le donne che ho in cura che non voglia che il suo uomo la capisca meglio. Senta, io non so come le sia successo né perché... Ma lei è senz'altro l'uomo più fortunato del pianeta. Si rende conto del potenziale? Sapendo quello che vogliono le donne, lei è un dio. Sapendo quello che vogliono le donne, lei è un dio. E questa era la psicologa di Nick Marshall, interpretato da Mel Gibson nel film What Women Want. Era una commedia nella quale il protagonista si trova dotato di un potere eccezionale, quello di... capire, di sentire i pensieri delle donne. All'inizio gli sembra di impazzire, poi si rende conto di poter sfruttare a suo vantaggio questa incredibile capacità. E ci proviamo tutti a sentire i pensieri delle donne, qualcuno prova addirittura a scriverci delle canzoni sopra. E insomma, tutte le donne che incontra Mel Gibson nel film sono donne alle quali sembra che lui legga nella mente, e naturalmente reagiscono con un misto di stupore, di fiducia, di incredulità, di devozione. Insomma, Nick Marshall diventa come un dio per loro. Tutto questo è finzione, direte voi. Certo, molti rapporti sarebbero più semplici, ma forse anche però meno intriganti, forse anche più noiosi, però insomma molte cose si risolverebbero se gli uomini e le donne parlassero la stessa lingua. Bene, la storia di oggi non è finzione, è una storia vera, è la storia di un uomo reale, uno che ha capito per davvero che cosa vogliono le donne. Grazie a questa sua intuizione ha volato in alto, forse più in alto di tutti, ha conquistato milioni di donne in tutto il mondo. Le donne lo hanno sempre adorato perché lui le ha capite e interpretate, le ha fatte sentire speciali, bellissime, uniche. Però non è una rockstar, direi neanche un playboy, però dal suo punto di vista, da un certo punto di vista, è un grande seduttore. What do women want? Yeah, I know what women want. And what do they want? They want to be beautiful. They want to be beautiful. Le donne vogliono essere belle. Questo è il segreto che ci rivela lui stesso, il nostro protagonista di oggi, Valentino. Basta il nome, non c'è bisogno di aggiungere il cognome, non c'è bisogno di aggiungere dettagli per pensare immediatamente a uno degli stilisti italiani più famosi, più amati in tutto il mondo. La bellezza, questo è l'ingrediente magico che ha contraddistinto non solo le sue creazioni meravigliose, creazioni di alta moda, ma anche tutti gli aspetti della sua vita. Ha vestito dive del cinema, first lady, regine, ha amato e ama tuttora solo le cose eleganti e raffinate, dalle persone alle opere d'arte, perché di opere d'arte lui ne colleziona moltissime. E poi ha amato le residenze lussuose, ne possiede praticamente una in ogni paese, ha amato i cani di razza, i carlini sono i suoi preferiti, se li porta dappertutto, ha dato il nome a un colore. Insomma, quando diventi un aggettivo o addirittura un colore, sei entrato nella storia, Felliniano, no? E il colore è il rosso Valentino. Ha vissuto in un sogno forse sconnesso dalla realtà che lo circondava, però è andato dritto nel mondo dei sogni che lui aveva disegnato per se stesso, ma anche per le donne. Ha disegnato abiti unici, inimitabili, e si è nutrito solo di quella bellezza che ha ispirato la sua creatività per oltre mezzo secolo. Valentino Garavani nasce a Voghera nel 1932. I Garavani sono originari di Torre Menapace, che è un sobborgo tranquillo della provincia pavese. Lì c'è la cascina di nonno Valentino, poi c'è il figlio Mauro che sposa una ragazza che si chiama Teresa De Biagi, si trasferisce in un bel caseggiato umbertino nel centro di Voghera, inizia come barbiere, apre poi un'attività di commercio all'ingrosso, materiali elettrici, e il suo spirito imprenditoriale comincia a procurare alla famiglia un certo benessere economico. In questo contesto, che è sereno da tutti i punti di vista, nascono prima Wanda nel 24 e poi l'11 maggio di 8 anni dopo Valentino. L'11 maggio domani festeggia 87 anni. È precoce, alle elementari passa già tempo a disegnare sui libri fiori, modelli di vestiti, mentre i suoi amici giocano a pallone. Lui ha solo 7 anni e è già affascinato dalle storie che passano per radio, le storie dei fidanzamenti reali. L'ultima figlia di Vittorio Emanuele III sposa il principe Luigi di Borbone. Per lieta circostanza, aggiunge lo speaker, Sua Altezza Reale indosserà un abito di lamé verde. Questa è già una folgorazione, questo lamé verde, cioè, è una scintilla che accende i suoi occhi di bambino, e i sogni lui li alimenta con le immagini delle attrici bellissime che poco tempo dopo lui comincerà a ammirare sul grande schermo. I remember very well when I was young. Yeah. I was faking. Ricordo bene che quando ero piccolo fingevo di dormire. E intanto sognavo le dive del cinema e tutte le cose belle del mondo. Sono sempre stato attratto dalle riviste patinate e dai film. Quando mia sorella mi portò per la prima volta al cinema, rimasi folgorato da queste donne bellissime sullo schermo. Ricordo Le fanciulle delle follie, film con Eddie Lamar, Lana Turner, Judy Garland. Ero un ragazzino di 13 anni e, vedendo tanta bellezza, decisi che avrei creato abiti per signore. Valentino è sempre stato riservato, misterioso, ha sempre preservato la sua immagine e si è raccontato una sola volta praticamente in un docufilm, The Last Emperor, l'ultimo imperatore, 2008. Abbiamo preso alcune clip da questo lavoro. Per realizzarlo il regista Matt Tiernauer ha seguito Valentino e il suo staff per oltre 2 anni, ha ripreso tutto, un vero e proprio super reality di lusso, ha ripreso anche i momenti privati, i momenti turbolenti di una vita che definirei surreale, e nel film lui parla in italiano, in inglese, ancora più spesso in francese. Lui il francese lo considera la sua lingua principale, anche perché proprio da Parigi è iniziata la sua incredibile avventura. Eh già, perché dopo aver frequentato delle sartorie di provincia, poi la scuola di figurino a Milano, dove ha imparato la tecnica del disegno di moda, lui già a 17 anni decide di andare a Parigi, raggiungere la capitale della moda. Lo fa anche grazie al sostegno morale, ma anche economico, dei suoi genitori. Qui studia l'haute couture, l'alta moda. È uno studente modello, ovviamente, è pignolo, è determinato, e lui si trova perfettamente a suo agio in un ambiente raffinato, seducente come l'ambiente parigino, e lui non ha paura della concorrenza, sa di avere talento, sa di avere anche fortuna, vuole dimostrarlo al mondo intero. Valentino assimila il lusso, la classe dei francesi che rimarranno sempre il suo paradigma estetico. Le donne che vuole vestire devono essere donne particolari, non devono passare inosservate, però verranno ammirate le sue donne non per l'esuberanza, non per gli eccessi, ma proprio per l'eleganza, per la femminilità che appare e traspare da dettagli come un fiocco, uno sbuffo, un tessuto prezioso. Anni dopo riassumerà il suo stile e definirà l'eleganza come l'equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa. Siamo nel 57 e lui ha le idee chiare. È arrivato il momento di tornare in Italia. La sua prima boutique ha un indirizzo che la dice lunga sulle sue aspettative. È in via dei Condotti a Roma. Roma, via Veneto, la dolce vita, insomma questo è il contesto che sta nutrendo i sogni del giovane stilista, sogni che stanno diventando sempre più tangibili. Lui ha fondato la sua casa di moda, ha aperto una sfarzosa boutique in via Condotti, insomma tutti stanno parlando di questo esordiente venuto da Parigi. E il suo colpo d'ala rischia di trasformarsi in una caduta rovinosa, perché gli affari non vanno benissimo, non parte bene. Il suo talento creativo è indiscusso, ma il suo talento amministrativo non è all'altezza. Insomma, è un po' un disastro lui per quanto riguarda l'amministrazione del danaro. La società va subito pericolosamente vicina alla bancarotta. Lui non se ne cura, naturalmente, non ha il minimo senso pratico. I problemi non lo toccano, lui vola in alto. Vola al di sopra di tutto, vuole solo creare abiti meravigliosi per dive, per regine, e la fortuna rimane dalla sua parte, perché nell'estate del 60 lui è in via Veneto con altri amici in un lussuoso caffè della zona e incontra un giovane studente di architettura che darà una svolta determinante al suo destino e anche a quello dell'azienda. È Giancarlo Giammetti. It was the 31st of July, 1960. Era il 31 luglio del 1960. Io ero seduto a questo tavolo di un affollatissimo Café de Paris. Ad un certo punto si avvicina questo ragazzo e mi fa: sei solo? E io ho risposto di sì. Ti dispiace se ci sediamo qui noi tre? He said, I've seen your pictures in the cover of the magazine. Mi disse: ti ho visto sulle riviste di moda. Mi piacerebbe vedere il tuo atelier. E così venne a trovarmi in quella che era la mia prima casa di moda. Beh, Valentino ha 28 anni, Giancarlo 22, sono giovani, talentuosi, tutti e due amano la bella vita e diciamo pure che amano il lusso esagerato. Uno è un creativo, un po' naif, è un sognatore, l'altro è pragmatico, è intraprendente, affiuto per gli affari. Sono la classica coppia perfetta, personalità diverse ma veramente complementari, insomma danno vita a tante cose ma soprattutto a un legame professionale unico e indistruttibile. Giancarlo prende in mano la gestione dell'azienda, si fa carico di tutti i problemi pratici, amministrativi, quelli per i quali Valentino ha orrore. Tutto questo permette al suo socio di non pensare a nulla, esprimere serenamente il suo genio creativo. Insomma, la Maison Valentino è salva e inizia la sua incredibile ascesa. E il vero successo arriva nel 62. A Valentino viene concesso di sfilare a Firenze nelle sale di Palazzo Pitti. Peraltro lui insomma è un neofita, è nuovo, deve prendere quello che gli viene offerto. È l'unico spazio libero proposto dal leader di Pitti, che era il marchese Giorgini. L'unico spazio libero è l'ultimo giorno, l'ultima ora. Insomma, non è certo l'ideale per l'affluenza, però lo spettacolo è un trionfo. Giammetti ricorda: passammo tutta la notte a scrivere gli ordini. L'edizione francese di Vogue gli dedica due pagine. Insomma, è il segno della sua consacrazione tra i grandi della moda. Di lì a poco anche la stampa americana si accorgerà dello stilista italiano. Quando ha intuito che il momento suo era scattato? E questo qualche anno fa, appunto, quando molte signore della società internazionale, donne bellissime, molto importanti, hanno deciso di volersi vestire da me. Questo è il mio caso con la signora Kennedy, che io vesto ormai da più di due anni e faccio interamente il suo guardaroba. Settembre 1964, c'è una vedova particolare, direi insomma non certo inconsolabile, si chiama Jackie Kennedy, e ha notato un vestito indossato da un'amica, le chiede di chi sia e lei risponde: di un italiano, si chiama Valentino. Pochi giorni dopo Jackie e Valentino si incontrano per la prima volta, non si lasceranno più. Lei adora gli abiti che lui le crea praticamente su misura, e lui la considera una musa, una fonte di ispirazione continua, con uno stile sempre moderno, adeguato ai tempi. Peraltro è naturalmente di Valentino l'abito di pizzo avorio con il quale Jacqueline sposa Onassis nel 1968. Sempre a lei verrà dedicata la celebre collezione della primavera-estate di quello stesso anno, mentre la gente sta affollando i cortei col pugno alzato e per alcune ragazze nulla sembra più desiderabile di un bell'eschimo. Insomma, erano periodi terrificanti per una parte delle donne: gli zoccoli, il calzettone a re, appunto l'eschimo, le gonne larghe, lunghe, le spadriglie, cioè un momento terrificante. E intanto Valentino, per fortuna, va da un'altra parte, incanta il mondo con questa collezione tutta bianca, leggerissima, estremamente preziosa. Per gli americani di allora Valentino è Mr. Chic. E dopo Jackie, negli atelier di Valentino Garavani arrivano Audrey Hepburn, Nancy Reagan, Marella Agnelli e il cappotto che l'imperatrice di Persia Faradiba indossa durante la fuga dalla rivoluzione degli Ayatollah è di Valentino. Sono suoi gli abiti bianchi con i quali vanno all'altare Marie Chantal di Grecia, la principessa Maxima della casa reale olandese, Clotilde Courau con Emanuele Filiberto di Savoia, Lavinia Borromeo con John Elkann, Atina Onassis, Maddalena di Svezia. Ha vestito 8 attrici premiate alla cerimonia degli Oscar. Vi butto lì qualche nome: Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Julia Roberts, Kate Blanchett. Ma torniamo agli anni di questa inarrestabile ascesa. Valentino ha spostato la sede del suo atelier da via Condotti a piazza Mignanelli, e di fronte all'ambasciata di Spagna c'è un palazzo meraviglioso, un palazzo del 600. Sul suo portone svetta una V dorata. All'interno c'è una sala del trono con decine di mappamondi, opere d'arte disseminate ovunque. Insomma, non è certo uno di basso profilo. E nel frattempo gli arrivano riconoscimenti da tutto il mondo. Il premio Neiman Marcus, che è l'equivalente dell'Oscar nel mondo della moda. Giancarlo Giammetti intanto è sempre al suo fianco, e lui lo sceneggiatore, il regista della favola di Valentino, perché di favola si tratta. È un grande comunicatore Giammetti, è un innovatore, capisce la direzione del mercato, ne precorre gli sviluppi. Per esempio è sua l'idea di mettere per la prima volta la musica durante le sfilate. Fino a quel momento le modelle salivano in passerella in un rigoroso silenzio, e piano piano, insomma, l'abbiamo visto ormai, le sfilate sono dei veri e propri spettacoli, proprio grazie alla coppia Giammetti-Valentino. Giammetti sta facendo la fortuna del suo partner. Quello tra Giancarlo e Valentino, insomma, l'abbiamo intuito, non è solo un legame professionale, c'è anche una storia d'amore che dura 12 anni, una storia che rimane riservata per la maggior parte del tempo, comunione di progetti e un'affinità profonda. A tutti sembra veramente il rapporto perfetto, è un vincolo estremo che peraltro rimarrà un miracolo per tutta la loro esistenza, è un vincolo che dura sotto altri aspetti, ma ancora oggi. In our case probably it's a miracle. Nel nostro caso si tratta di un miracolo. Non si vedono spesso due persone così vicine per così tanti anni. Ho visto Valentino praticamente tutti i giorni per 45 anni, eccetto forse per un totale di 2 mesi. In 45 years, the total 2 months. Il falco e il gabbiano. Valentino, basta il suo nome di battesimo e subito pensiamo a moda, eleganza, femminilità. 45 anni, che è uno degli stilisti italiani più famosi al mondo, il più amato sicuramente dalle donne, donne che lui ha saputo valorizzare, lusingare, rendere bellissime. E nel nostro racconto siamo arrivati al periodo del suo massimo splendore: dive, principesse, first lady, tutte corrono da lui per farsi vestire negli anni 70-80. Il fatturato della Maison cresce di 30-40 volte. Questo anche, direi, soprattutto grazie al suo sodalizio con il pragmatico Giancarlo Giammetti, quello che è riuscito a rendere tutto questo sogno qualcosa anche di molto pratico, direi, insomma, dal punto di vista economico. Valentino ha creato l'alta moda, però col suo marchio sono arrivati anche il prêt-à-porter, cioè diciamo la moda più accessibile, è arrivata la linea uomo, e poi gli accessori, quelli che stanno diffondendo il brand nel mondo e quelli che veramente aumentano i ricavi. Pochi sanno che in quegli anni è stata prodotta anche una macchina griffata dallo stilista, l'Alfa Sud Valentino, bronzo metallizzato, tetto nero, cerchi color oro, interni di velluto nero. Insomma, rendere elegante l'Alfa Sud è veramente un miracolo. Collezioni indimenticabili, serate di gala tra Parigi e New York, notti esclusive nel mitico studio 54, incontri che diventeranno leggenda. Insomma, questa è la vita di Valentino: lavoro, amici, feste. Nel 71, per esempio, durante una delle colazioni alla Factory con Truman Capote e Elizabeth Taylor, immaginate sto tavolo: Valentino, Truman Capote, Elizabeth Taylor e Andy Warhol, che fa le foto al tutto, realizza un ritratto di Valentino. Le parole di John Fairchild, uno storico ex direttore della rivista di moda Women's Wear Daily, danno l'idea di come andassero gli affari in quegli anni. Valentino e Giancarlo sono i re dell'high living. Tutti gli altri stilisti guardano e dicono: ma come fanno? Non credo che nessuno di loro abbia mai fatto i soldi che Valentino e Giancarlo hanno guadagnato, perché Giancarlo sa come fare soldi, e se li hanno fatti non li hanno spesi come Valentino. Negli anni del terrorismo a Roma, quando le Brigate Rosse rapivano le persone, Valentino girava con una Mercedes blindata. E sai di che colore era? Rossa. Dio mio, pensai, vuoi proprio che ti facciano saltare in aria? Il rosso è il suo colore, ma attenzione, una precisa tonalità di rosso che vira leggermente verso l'arancione e diventa subito riconoscibilissimo. Il celebre rosso Valentino è stato codificato sulle tabelle cromatiche internazionali, non so se mi spiego. Pare che se ne sia innamorato da giovane durante una serata al Teatro dell'Opera di Barcellona, quando è rimasto folgorato dai costumi rossi che facevano sembrare le donne rosse come dei gerani. Ha una tale vitalità e un tale fascino che amo vederlo non soltanto negli abiti, ma anche nelle case, nei fiori, negli oggetti, nei dettagli. È il mio portafortuna. Una donna vestita di rosso non sbaglia mai. È un colore che dona. Sta bene a tutte. Conferisce molta energia, molto smalto. Il rosso è vita, passione, amore. È il rimedio contro la tristezza. Penso che una donna vestita di rosso, soprattutto di sera, sia meravigliosa. È, tra la folla, la perfetta immagine dell'eroina. E la fortuna prosegue negli anni Ottanta, però lui di quegli anni conserva un pessimo ricordo. Non gli piacevano le proporzioni dei vestiti, le spalle eccessive, i capelli terribili. In realtà, insomma, sì, i capelli delle donne degli anni Ottanta erano particolari, tutti gonfi, ma a me non dispiacevano. Peraltro gli anni Ottanta sono anche gli anni nei quali si comincia prima a parlare e poi purtroppo a morire di AIDS. Così a ridosso degli anni 90 la coppia Garavani-Giammetti fonda l'Accademia Valentino, che promuove eventi culturali, sociali, artistici, e poi l'associazione LIFE Life, che con i proventi dell'Accademia si occupa di incrementare la ricerca, di combattere l'AIDS, mediante anche campagne di informazione e supporto ai parenti dei sieropositivi. E sta festeggiando i suoi 30 anni di carriera Valentino, e lo fa con mostre, eventi sfarzosi tra Roma e New York. Nel 91 disegna un lungo abito bianco con la parola pace scritta in 14 lingue diverse. Nel 91, ricordiamo, c'è la guerra del Golfo e lui vuole esprimere con molta chiarezza le sue idee attraverso sulle sue creazioni. E questo vestito verrà chiamato Peace Dress, diventerà proprio un iconico, e lui per questo vestito riceverà dal Parlamento Europeo il premio La Moda Veste la Pace. Nel frattempo si moltiplicano le residenze di lusso dello stilista, si compra un castello vicino a Parigi, un palazzo ottocentesco a Londra, lì c'è un salone dove ci sono 5 Picasso, poi si compra una villa sull'Appia Antica, un appartamento a New York, uno chalet a Gstaad in Svizzera. La sua casa preferita è quella di Parigi, perché è quella dove lui si sente felice anche quando è da solo, dice. Roma è la città dove lui si sente veramente a casa, mi piace dare feste speciali in cui deve trionfare il mio culto per la bellezza. I ricevimenti di Valentino sono memorabili, lui si prende cura dei suoi ospiti in ogni minimo dettaglio, vuole far star bene i suoi amici, ama divertirsi, ama festeggiare, ma sempre con misura, con eleganza. Oggi chi ha denaro non sempre ha classe e memoria, dice con amarezza. Questa è una frase da scolpire, anzi spesso oggi il denaro va in manicafone, aggiungo io. Lui critica gli eccessi dei nostri tempi. Ed è per questo che nel 1998, tra le lacrime di commozione, l'azienda viene ceduta alla HDP, per poi passare ancora, dopo soli 4 anni, nelle mani del gruppo Marzotto. La nuova proprietà riserva a Matteo Marzotto, presidente dell'azienda, le decisioni relative ad amministrazione e finanza. E dunque a cavallo degli anni 2000 la Maison Valentino viene acquistata dal gruppo Marzotto. Giancarlo Giammetti ha studiato questa mossa nei minimi dettagli, e Valentino ha 70 anni, prima o poi dovrà smettere di disegnare. Il business nella moda sta cambiando rapidamente, è sempre più votato al commercio di massa, quindi questo cambiamento in qualche modo poco si concilia con la visione sognatrice di Valentino. E Giannetti ritiene che sia arrivato il momento di capitalizzare il lavoro fatto, però naturalmente la mano di Valentino prosegue a impugnare con mano ferma la matita. Questo è quello che dichiara Giannetti a proposito dell'amministrazione Marzotto. You know, Matteo can say anything he wants. Matteo può dire quello che vuole. Non ha potere in questa compagnia. È un ragazzo giovane, simpatico, lo apprezzo come amico, ma qualsiasi cosa dica non ha alcun valore per me. E con questo nuovo assetto, che porta dietro anche delle litigate furiose e delle riappacificazioni amichevoli appunto tra Giancarlo Giannetti e il gruppo Marzotto con Matteo, con questo assetto Valentino sta per festeggiare i suoi 45 anni di carriera. Naturalmente lo fa nel suo stile. Dal 6 all'8 luglio del 2007 va in scena a Roma uno degli eventi più faraonici che la storia della moda ricordi. Le celebrazioni costano decine di milioni di euro, prevedono una mostra retrospettiva con 300 abiti iconici allestita all'Ara Pacis, una cena di gala con ambientazioni multietniche per rendere omaggio alla fantasia creativa del festeggiato di Valentino, e poi un cocktail con spettacolo serale in una delle cornici più suggestive del mondo, cioè i Fori Imperiali, in particolare il Tempio di Venere, la dea della bellezza, tempio che viene ricostruito per l'occasione con colonne corinzie in vetro resina che cambiano colore nel passaggio dal crepuscolo alla notte. Ecco, invece, intanto, per le nostre prossime feste noi continueremo a pensare ai salatini. La serata si conclude con fuochi d'artificio, danzatrici vestite di rosso che volteggiano in cielo, sospese davanti al Colosseo sulle note dell'aria O mio bambino caro, cantata da Maria Callas. Il falco e il gabbiano. Il gabbiano. Luglio 2007, si sono appena concluse a Roma le imperiali celebrazioni per i 45 anni di carriera di Valentino Garavani. Le immagini dei festeggiamenti fanno il giro del mondo e in quegli stessi giorni la società finanziaria Permira acquisisce il 30% del gruppo e annuncia di volerne comprare un ulteriore 25%. Insomma, si stanno rincorrendo le voci dell'imminente abbandono dello stilista. Così sarà. A settembre del 2007 decide che è arrivato il momento giusto per uscire di scena. Pochi mesi più tardi esplode la crisi. E insomma, anche questo è un colpo d'ala, direi anche un colpo di fortuna. D'altra parte, le grandi intuizioni hanno sempre contraddistinto la vita di Valentino. I stopped because, you know, at a certain point I want to. Mi sono ritirato perché a un certo punto volevo vivere la mia vita, occuparmi di altre passioni, come quella per l'opera, che spero diventi il mio futuro, disegnare i costumi di scena, tutte cose che mi danno gioia. E poi devo dire che sono felicissimo di aver smesso nel momento giusto. Dopo sei mesi è iniziata la crisi. L'opera ha sempre un grande successo, ma è passata un pochino in seconda categoria. Però c'è un tale romanticismo, c'è una tale bravura nei cantanti, che sono molto più importanti di tutti i concerti rock, non è che io non li ami, però c'è un'atmosfera molto più romantica, è molto bella e molto, soprattutto molto visualmente, molto bella da vedere. E questo era lui alla conferenza stampa di presentazione della Traviata diretta da Sofia Coppola a Roma nel 2016. A parte questa frecciatina sui concerti rock, che insomma un po' condivido, un po' no, insomma lui difende in maniera appassionata il genere operistico, che ovviamente è il più adatto, diciamo, alla sua indole estetica. Parla dei costumi che ha disegnato per Violetta. Lui ha realizzato il desiderio che aveva da tempo: dare il suo tocco inconfondibile agli abiti di scena. A quasi 90 anni Valentino continua a godersi la sua vita. Fargli compagnia ci sono i suoi amati Carlini, ma rimane anche l'amico e socio Giammetti. È un legame speciale tra loro, un legame che non si è mai interrotto. La commozione con la quale Valentino ringrazia Giancarlo quando lui viene insignito della prestigiosa Legione d'Onore, la più importante onorificenza di Francia, una delle più importanti del mondo, avviene il 6 luglio del 2006. Questa commozione, insomma, testimonia la forza di un legame che va anche al di là del tempo e dei sensi. Beaucoup d'amis et de collaborateurs m'ont accompagné tout au long de ma longue carrière. Molti amici e collaboratori mi hanno seguito nel corso della mia carriera e vorrei menzionarli: la signora Gabriella Battiti, la signora Giardina, il signor Bruce Oxema e il signor Carlos Sousa. Ne avrei molti altri da ricordare e mi scuserete se non mi dilungo. La mia gratitudine. Ma la mia gratitudine e amicizia vanno soprattutto al signor Giancarlo Giammetti, mio socio fin dall'inizio, che è rimasto al mio fianco per tutti questi anni. È lui che questa mattina tengo personalmente a ringraziare con tutta la mia stima, riconoscenza e gratitudine. Oggi Valentino è legato sentimentalmente a Bruce Oxema, è un ex modello, un designer. Di questa famiglia fanno parte anche i fratelli brasiliani Sean e Anthony de Souza, i genitori Carlos e Charlene. Valentino incontrò Carlos Sousa nel 73, il ragazzo aveva 18 anni, durante il carnevale di Rio l'ha incontrato, era considerato il più bel ragazzo del Brasile. Carlos rimane folgorato da Valentino, accetta di seguirlo, lavora con lui e per lui per i successivi 30 anni. Valentino è un uomo che vive immerso nella sua celebrità, è immerso nella sua leggenda da oltre 60 anni, ha un'esistenza che definirei simile a quella della regina Elisabetta, gira senza soldi perché ovviamente c'è chi paga per lui e ha il bisogno, ama il cinema ma non va al cinema ovviamente perché c'è chi gli fa vedere i film sullo schermo di casa. Si sposta con un aereo privato, per mare invece va in giro col suo yacht TM Blue One. Le iniziali sono un omaggio ai genitori Teresa e Mauro. A proposito della sua incredibile vita, lui ha recentemente dichiarato: devo dirvi che penso di essere una delle persone più felici e più fortunate del mondo. E a volte mi chiedo: hai fatto qualcosa per ottenere tutte queste cose? E ovviamente mi dico sì, perché così è e bisogna dirlo. Non ci sono invidia, anche perché sarebbe difficile invidiare qualcun altro. Non c'è noia, non c'è rabbia, non ci sono rimpianti nella vita di Valentino. Rimane la determinazione nell'inseguire i suoi sogni, la consapevolezza del suo talento, l'autostima, ma anche il pensiero che nulla è impossibile. Questo insomma è il grande insegnamento. E poi c'è l'amore per gli amici, l'amore per la bella vita, la voglia di rendere felici i tuoi amici, è un'altra cosa che suscita insomma la nostra approvazione, e poi la soddisfazione di aver avuto tutto quello che aveva desiderato. È bello vivere, ma a volte è bello anche vincere. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il nostro microfono, sapete dove trovarci. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Anita Panizza, produzione a cura di Luigi Speciale. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.